Romulo. Luigi, Luigi! Gol! E gol, Luigi! Luigi Romulo! Fate l'invasione, fatela l'invasione! Fate l'invasione! Martedì 30 giugno, sono le 20, ciao a tutte e a tutti, bentrovati, questa è Radio Onda Rossa, comincia Note Cose Città. Rapidamente vi ricordo i nostri contatti, lo 06 49 17 50, il sito www.ondarossa.info, andate e sottoscrivete. Buonasera Fabio, aspetta. Eccoti. Buonasera vai. Ale, buonasera a tutte e a tutti. Da a quanto tutte tempo? Le persone che ci stanno ascoltando. Da sì. Quanto tempo? Che saranno passate 3 settimane. 3 settimane. Oh, dove andiamo oggi? Che abbiamo una puntata ricca oggi, L'ultima puntata della stagione, possiamo dirlo? Innanzitutto, sì, possiamo dirlo perché è vero, è l'ultima puntata della stagione e ti porto allo stadio oggi, Ale. Ma non ci si può andare allo stadio? Sì, in effetti non ci si può andare allo stadio, ma in qualche modo noi ci andiamo comunque, ma capiamo come superare i divieti e quant'altro, ma a parte le battute, a parte le scemenze, perché andiamo allo stadio in questa puntata? Perché anche se non siete tifosi, se non seguite il calcio, oppure se questo calcio non vi interessa, vi sarete accorti quantomeno girando il canale, i canali in TV o sfogliando i giornali, che da qualche settimana, forse 3 settimane, se non vado errato, è ripartito il campionato, è ripartito in maniera abbastanza allucinante, non ha nulla a che fare, almeno per quanto ci riguarda, surreale, con lo sport. I campionati andavano chiusi, i diritti televisivi andavano incassati, le grandi società, i grandi modelli societari che governano il calcio moderno non devono fallire, e quindi stiamo in questo clima reale per cui si gioca a calcio a 40 gradi in impianti enormi, desolati, vuoti, perché i tifosi non possono entrare per le misure anti-Covid. Quindi lo sport popolare per eccellenza, senza popolo. Ci stanno i sagome dei cartoni. Ci stanno i tifosi cartonati, sì, adesso non entriamo in polemiche che potrebbero portarci qualche... di cose scomode. Sì. Insomma, comunque sì, al di là dei tifosi di cartone, il clima, diciamo, è surreale davvero, perché... Insomma, al di là di qualsiasi giudizio, immaginare, pensare qualche anno fa una partita di calcio, o meglio 10 giornate di campionato senza tifosi, insomma, non è quantomeno fa un po' ride. Bizzarro, sì. Come tutte le trasmissioni sportive, perché oggi questo ti amo, questi rispettano, abbiamo in studio con noi il nostro opinionista, lo salutiamo, è Luca Pisapia, giornalista sportivo e scrittore. Ciao Luca. Ciao a tutte e a tutti. Ammazza, che voce. Grazie per l'invito. Oh, opinionista, ma non strillone però, eh? Vabbè, sì. Ok. Si fa sentire. Beh, Luca lo presenteremo con più calma dopo. Adesso cerchiamo di non chiacchierare troppo in questa fase e partire subito con un po' di musica. Senti che ti ho messo. Mi fa abbastanza onore, me lo tengo, se abbassi poco il volume me lo tengo sotto. Dicevo, cominciamo intanto con un po' di musica, cominciamo con un artista che qui passiamo tutte le volte che possiamo e capiamo moltissimo, l'artista in questione è Billy Bragg, inglese, tifosissimo del West Ham, una squadra che incontreremo lungo questa puntata. Lui, cantautore, diciamo così, militante, definiamolo così, ha un fortissimo legame con il calcio, in realtà non solo perché, come ho detto, è tipo del West Ham, ma perché anche in diverse canzoni ha comunque affrontato il tema, l'ha toccato. Cita, leggendo il testo di una sua canzone amatissima, si chiama Sexuality, abbiamo scoperto che suo zio giocava niente di poco di meno che nella Stella Rossa di Belgrado. C'è proprio un verso in cui lui, Bragg, canta I had an uncle who once played for Red Star Belgrade. Se ho pronunciato bene, non credo. Perfetto. Poi c'è un'altra canzone contenuta in Don't Try Tease the Tom, il suo disco, forse il suo disco migliore, del 1991. Una canzone si chiama God's Footballer, oddio la pronuncia, perdonatemi. Questa canzone è dedicata a un giocatore del Wolverhampton, tale Peter Nowers, che lasciò il calcio di fatto perché fu folgorato per la via di Damasco e divenne un testimone di Geova, quindi di fatto un giocatore molto promettente lasciò il calcio per seguire le orme di Geova. Le orme di Geova, diciamo così. Poi un altro aneddoto che forse qualcuno ricorderà, visto che è abbastanza recente, Billy Bragg ha fatto un attacco frontale a Paolo Di Canio. Paolo Di Canio, per chi non lo conoscesse, è un ex calciatore di Milan, Lazio, Napoli, insomma un giocatore dichiaratamente fascista che ha giocato con lo West Ham per qualche stagione. Evidentemente Bragg, da antifascista, non ha tollerato quella presenza e quando Di Canio è tornato in Inghilterra come allenatore del Sunderland, un'esperienza abbastanza fallimentare, ti ricordo bene, e lui sul palco di stava a Seattle in quel momento lo attaccò frontalmente dicendo, Di Canio disse, quando ci fu qualche polemica e dopo il suo arrivo, disse: io non sono un razzista, sono un fascista, no? E lui, Bragg, disse al palco: ha detto di non essere un razzista ma un fascista, come se in qualche modo la cosa fosse più rispettabile. Bene, un messaggio per te, mister Di Canio: tutti voi fascisti siete destinati alla sconfitta, tutti voi fascisti siete destinati alla sconfitta, è il titolo di una canzone di Woody Guthrie che Bragg suona spesso dal vivo, e quindi in quel caso l'ha dedicata al buon, per modo di dire, Di Canio. Però adesso la sto facendo troppo lunga. La canzone che passiamo adesso è della canzone forse più bella di Billy Bragg dedicata al calcio, si chiama The Boy Don't Good, è stata pubblicata in un EP del 1997 che si chiama Block on Block, scusa che stavo sbattendo, e la canzone l'ha scritta insieme al chitarrista degli Smiths e suo grande amico Johnny Marr, e la canzone è magnifica e noi ce l'ascoltiamo. Vogliamo aggiungere soltanto che ci concentriamo nel corso della puntata soprattutto sull'Inghilterra. Sì, saremo soprattutto in Inghilterra, qualche puntata in Italia, ma poi ne parleremo. Capiremo perché lungo la puntata. Billy Bragg, The Boy Don't Good. Done better, the seasons turn, we stood together, the sky. noi con Billy Bragg abbiamo aperto questa puntata dedicata al calcio, io direi di iniziare a coinvolgere subito il nostro opinionista, che nel 2018 è uscito per Edizioni Allegre, tra l'altro è di prossima uscita anche un altro libro, sempre di Luca Pisapia, dedicato a Gigi Riva, e invece il libro del 2018 si chiama Vucci di Paul Breitner, frammenti di un discorso sul pallone. Luca, tu correggimi se dico qualcosa di sbagliato, una storia che ruota intorno a tre campionati del mondo, Argentina 78, USA 94 e Brasile 2014, secondo te i tre mondiali che diciamo in qualche modo segnano una tappa importante nel rapporto tra mondo del calcio e intrattenimento. Adesso non ti chiedo di raccontarci il libro, però magari fermiamoci sul primo capitolo, ovvero Argentina 78, mondiale, per chi non sapesse nulla, che si svolse sotto la dittatura di Vileda, vinto poi diciamo non senza ombre dai padroni di casa. In finale l'Argentina sconfisse l'Olanda, che partecipò a quel mondiale senza il loro giocatore più forte, più rappresentativo, Johan Cruyff. Ciao a tutte e a tutti di nuovo. Sì, il mondiale, quello di Argentina 78, è quello più raccontato nei libri, nei film, in tutte le forme di narrazione possibile, perché è chiaramente il mondiale della dittatura. C'è una dittatura in Argentina con Videla, c'è una nazionale che deve vincere e vince con partite assurde comprate nei gironi di qualificazioni e con arbitri che le fanno fare tutto quello che vuole, soprattutto in finale con l'Olanda. Ma diciamo che il binomio tra calcio e dittatura è molto più antico. La prima grande squadra è l'Italia, che nel 34-38 vince i mondiali, nel 36 vince le Olimpiadi, ed è l'Italia del fascismo, perché il calcio è sempre stato utilizzato per dare un senso di potenza e di nazione, di coesione sociale, e questo succede appunto anche in Argentina, e succede con i mondiali del Brasile. C'era la dittatura anche in Brasile, quando il Brasile vince tre mondiali con Pelé, Garrincha e tutti quanti. Succede in Argentina nel 78 e succede, ed è curiosa la cosa visto che il calcio dittatura nasce in Italia, è curiosa la presenza degli italiani. Se noi guardiamo sugli spalti in quella finale, ci sono personaggi come Licio Gelli, ci sono personaggi come Stefano Delle Chiaie, fascisti, stragisti, che non erano lì per guardarsi una partita di calcio, ma perché erano lì perché erano stati mandati ad addestrare l'alleanza anticomunista argentina, da dove venivano José López Rega, Videla e tutti quanti. Però il calcio è pieno di contraddizioni. La cosa bella del pallone è questa, che non è appunto il pallone, non è simbolo della dittatura, e quindi è bello che in quella stessa partita in campo ci sia il suo opposto, il suo negativo, ovvero ci sia l'Olanda, la squadra del calcio totale. E calcio totale significa che non ci sono ruoli precisi in campo, che tutti si spostano per il campo, tutti si danno una mano, e la squadra è organizzata secondo i criteri della solidarietà, del mutualismo, dell'aiutarsi l'un con l'altro e del venirsi sempre in soccorso l'un con l'altro. Si guarda la palla e non si guarda l'uomo. E proprio questa Olanda e questo calcio totale ci raccontano tutto un altro tipo di calcio possibile, che è esistito parallelo al calcio della dittatura, e del quale parleremo poi in seguito. Sì, proprio infatti il calcio totale, la prossima canzone che ci ascoltiamo si chiama proprio Total Football, loro sono i Parquet Courts, che fecero uscire nel 2018 il loro disco Wild Awake per Road Trade Records, e il singolo che anticipava l'album si chiamava appunto Total Football. Loro sono newyorkesi, però sono anche appassionati di calcio, e dissero proprio appunto che si ispirarono al calcio totale, quello dell'Olanda, quello di Cruyff, come critica diciamo all'individualismo americano. Loro adattarono, almeno insomma la loro speranza era quella che questo calcio si potesse adattare alla società, e quindi superare l'individualismo e lavorare per un gioco di squadra in cui si favorisca la cooperazione e gli individui si aiutino gli uni con gli altri. Noi ce l'ascoltiamo, il disco appunto è del 2018, tra l'altro è lo stesso anno, Luca, del tuo libro. Vi siete sentiti quei Parquet Courts? Sì, abbiamo organizzato la cosa insieme, ma per venire qua stasera, non per altro. Total Football. We'll be right back. E tra l'altro il vinile, ho dimenticato di aggiungere, quando uscì in versione 7 pollici, la copertina, diciamo, riprendeva un po' il tema di un album di figurine, con i membri messi, i membri del gruppo messi lì come fossero figurine, e il nome Parket Course inserito in un logo che ricorda molto il nostro marchio di album. Non facciamo pubblicità, che tanto non gli serve. Basta, tutto qua fa. Io e quelli che l'hanno inventato, insomma, sì, quindi quando pensi a figurine pensi a loro. Pensi a loro. Posso, dottore? Porca miseria. No, abbiamo appena nominato, parlando di Argentina 78, abbiamo nominato Cruyff. Cruyff è uno dei giocatori più forti di sempre. Poi, sai, nelle classifiche dei giocatori più forti, come nelle classifiche dei musicisti. Maradona col tiro che colpisce la traversa, poi mentre rientra in campo il pallone sbatte sulle spalle del portiere e Mastro Nunzio ha segnato. Vicenza in vantaggio con botta. Mamma mia, Mastro Nunzio è un giocatore sì, fenomenale, pazzesco. Scusa, perché sono davanti le partite. Davanti, sai, la diretta sta sempre. Eh no, lo so, il problema è quello. Quindi dicevo, abbiamo nominato Cruyff. Cruyff è uno di quei calciatori che finiscono sempre nelle classifiche tra i più grandi di sempre. Classifiche sempre abbastanza arbitrarie, ma diciamo su Cruyff abbiamo pochi dubbi. Come una figura come la sua, non è una figura legata solo alle prestazioni in campo, è un giocatore molto più ricco, non è solo, non è stato solo amato e non è ancora amato soltanto per quello che combinava in campo, ma anche per altri motivi. In questa categoria abbastanza ampia possiamo far rientrare tanti giocatori, un giocatore che certo in Italia possiamo stare su Meroni, e grande giocatore del, del Toro, possiamo stare, possiamo parlare di Vendrame, lo, ne parleremo dopo, lo rincontreremo lungo questa puntata, possiamo, pensiamo per altri motivi magari a Socrates o a Robin Friday, che anche su cui Luca ci dirà qualcosa. Tra i grandissimi giocatori che hanno segnato l'immaginario certamente c'è George Best. George Best che è, di cui ricorrerà il, cioè il prossimo 25 novembre saranno passati 15 anni dalla, dalla sua morte. Lui è un giocatore di Belfast, era un giocatore di Belfast, nordirlandese, quindi ha legato la sua carriera in particolare, o forse esclusivamente, adesso non so se Luca certamente ne sa più di me, comunque al Manchester United. Ma se anche non fosse, se anche non bastassero tutte le sue capacità tecniche per incoronarlo fra i più grandi di sempre, è certamente impossibile contestare il suo ruolo, il ruolo che ha giocato nell'immaginario collettivo. Cioè lui passò alla storia, veniva chiamato, era considerato il quinto Beatle, perché aveva per quegli anni, per la sua capigliatura, per la sua barba lunga, per il suo stile di vita, per i suoi eccessi, insomma è un giocatore che in qualche modo era al tempo, aveva una aura intorno, aveva una, era considerato un'icona alla stregua di, delle rock star degli anni 60 e 70. La sua vita, diciamo, un po' votata agli eccessi, eccessi nel gioco d'azzardo, nell'alcol, nei motori, ha portato alla sua morte in età abbastanza, insomma, giovane, perché è morto comunque a 59 anni, e una morte tragica, la sua, che lui stesso ha annunciato richiedendo, su sua esplicita richiesta, un giornale si chiama News of the World pubblicò la sua foto, lui morente in ospedale, che la didascalia diceva "Don't die like me", non morite come me, cioè, quindi lui alla fine ha lanciato un appello per dire non fate le stronzate che ho fatto io. Adesso e consigliamo pure la biografia di Best, che è molto bella per chi volesse conoscere il personaggio. C'è anche un film che a memoria mia non è particolarmente eccezionale, no, ma comunque c'è anche un film bella dedicato a Best. Adesso non so Luca che cosa ci vuole, che cosa sa, che cosa ci vuole raccontare su George Best. Sì, Best è sicuramente il giocatore più musicale di tutti quanti, è una vera e propria rockstar. E tra l'altro lui gioca negli anni giusti e impazzisce negli anni giusti, e con lui impazzisce tutta la folla. Best vince la Coppa Campioni e poi il Pallone d'Oro nel 68, nell'anno dell'assalto al cielo, quindi un calciatore ribelle, anticonformista, coi calzettoni abbassati, capelli lunghi, che vince e stravince in quegli anni lì, ti dà l'idea che chiunque ce la possa fare, e sfonda nell'immaginario come un qualcosa di alternativo. E Best è un vero e proprio poeta maledetto, la sua frase diciamo più nota è quella, ovviamente, che ha nella vita lui tutti i soldi che ha guadagnato li ha spesi in feste, in macchine, in alcol, e tutto il resto invece l'ha sperperato. E questa cosa qua dà proprio l'idea del fatto del ragazzo che arriva dai quartieri popolari di Belfast, inizia a giocare a pallone in un calcio che iniziava a offrire tanti soldi, a essere visto, trasmesso dalle televisioni e tutto quanto, e ne approfitta, cioè lui vede che c'è lo spettacolo e approfitta dello spettacolo, e quindi praticamente se la gode fino in fondo, si prende tutti i soldi e se li spende tutti quanti e approfitta di tutto quello che gli danno per godersi la vita. Quindi non solo il calcio è una macchina da soldi dove c'è la gente che guadagna sui tifosi, ma ci sono anche delle persone, Best è stato un grande per quello, che espropriano quello che è il valore del pallone, se lo prendono per loro, lo distribuiscono agli amici e ci fanno una grande vita. L'altro nome che hai fatto, Fabio, che è quello di Robin Friday, che è meno conosciuto ma che è spettacolare e meravigliosa la sua storia allo stesso modo. Lui era un George Best, diciamo, in tono minore. La sua miglior stagione è stata in Serie B a Reading, mi pare che fosse. Stagione interrotta perché lui comunque continuava a lavorare come muratore mentre giocava a pallone, è caduto da un ponteggio, si è rotto una gamba e si è perso una stagione. Lui è stato tipo arrestato perché il giorno del suo matrimonio, come bomboniera, distribuiva marijuana, ha raccontato di aver giocato ubriaco, giocavano tutti, ha raccontato di aver giocato in acido una partita, cioè proprio si godeva la vita. E torno sulla cosa che hai detto tu dell'immagine finale di Best, che ti fa capire proprio come Best capisca, sia molto furbo, capisca che ci sono i soldi, che ne può approfittare, che si può divertire. Quella foto lì tragica che esce sul News of the World, che è il supplemento domenicale del The Sun, del tabloid più venduto in Inghilterra, lui la vende proprio perché fino all'ultimo lui ci vuole fare i soldi con la sua persona, ne vuole approfittare, ci vuole guadagnare. Quindi anche sul letto di morte lui va dal tabloid più squallido, che lui più odiava di tutti quanti, e gli dà la sua ultima foto in cambio di un pacco di soldi che poi lascia alla famiglia e agli amici. Io ero stato molto più, grazie Luca, non sapevo questo, quindi ero stato molto più romantico, no? Pensavo fosse una conversione. Ma io l'ho sempre saputo che tu sotto sei buono, così, ma lo so, tutto fa un buono. Comunque, Se la morte, prima Alessandro ha nominato la biografia, abbiamo nominato il film. Comunque Se la morte non ha fatto altro che aumentare lo status di icona di Best. Anche in vita gli sono stati riconosciuti tantissimi tributi, anche dal punto di vista, anche musicalmente. E tra questi certamente quello che più interessa a noi è l'esordio di una band che si chiama ancora Wedding Present, una band di Leeds che nel 1987 a ottobre è uscito con il suo primo album intitolato appunto George Best. La stessa copertina del disco, approvata dallo stesso Best, e ritrae il calciatore in campo, la maglia del United, con capelli fluenti, barba lunga e, come diceva Luca, calzettoni abbassati lungo le caviglie. E i Wedding Present, per chi non li conoscesse, è forse la band indie più importante inglese degli anni 80, e loro fecero la prima comparsa nella mitologica compilation su cassetta C86, che uscì con la New Musical Express nel 1986 appunto. In questa compilation presentava 22 gruppi, e il primo gruppo era i Primal Scream, e subito dopo c'erano i Wedding Present. E a differenza di Luca, prima parlava di del fatto che Best è diventato un'icona anche perché ha dimostrato nel 68, negli anni della rivolta, negli anni della salta al cielo, ha dimostrato che chiunque poteva farcela, anche chi stava fuori dagli schemi, fuori dallo stereotipo dell'atleta professionista che dà tutto in campo negli allenamenti, durante le partite, eccetera eccetera. In realtà poi Best certo dà l'idea che tutto è possibile. Nello stesso tempo era un giocatore dalle doti eccezionali, e quindi forse non, difficilmente rientra in una categoria di non è uno qualunque, diciamo così. E la cosa, l'aspetto curioso del disco di Wedding Present è che l'album sono tutte storie di quotidianità, di vita ordinaria, e quelle raccontate dall'autore dei testi, che è David Gedge. E il fatto che in copertina ci fosse Bester creava un po' questo, come dire, una aiutatemi, non mi viene la parola, comunque era un contrasto forte tra l'immagine di copertina, appunto un giocatore eccezionale, e storie assolutamente ordinarie raccontate all'interno dell'album. L'ultima cosa prima di farvi riascoltare, e la band fu molto molto molto spinta dal più grande DJ inglese almeno di quegli anni, che era John Peel. John Peel era tifosissimo del Liverpool e quando doveva promuovere i Wedding Present diceva era una grande band nonostante il tributo a Best, che lui evidentemente non aveva digerito. Liverpool e Manchester United, per farvi un parallelo, non so se Luca è d'accordo, equivale in Italia a Inter e Juventus, sono le due grandi nobili del calcio, sì, inglese, quindi è un derby molto sentito in Inghilterra, anche se da tra due città, e non è una stracittadina, diciamo così. Noi ci ascoltiamo la traccia che apre il disco dei Wedding Present, George Best. La canzone si chiama Everyone Thinks He Looks Daft. Oh, why do you catch my eye then turn away? I thought we said all the things we had to say. So said he saw you holding hands with your new friend. How does it feel to know you just won again? Don't give me that, 'cause you were seen. Everyone thinks he looks daft, but you can have your dream. That book of yours may be this one too. Oh sure, I'll bring them round tomorrow if that will do. What's really full? They must have queued there since 3:30. Oh, I didn't go. Was it a good film? Oh well, that's just me. Don't give me that, 'cause you were seen. Everyone thinks he looks daft, but you can have your dream. Or you can have a dream. Just the other day, that bit we used to think was mad, but now it looks okay. I think someone's here. Look out the window, I can't make out who. Oh, I'd love to stay, but I've really got so many things to do. Don't give me that, we'll be right back. E loro erano i wedding present, vedendo l'ora penso che non avremmo difficoltà ad arrivare a 90 minuti, ci starà pure sicuramente un po' di recupero. Ma forse proprio i supplementari. Forse supplementari, calci di ore, eccetera. Allora, dunque, direi che è anche arrivato il momento di introdurre un grande studioso, uno storico, un sociologo importante per insomma, che ha parlato tanto di dinamiche di calcio, ovvero Valerio Marchi. E ne approfitterei, Luca, per scambiare anche due parole con te su quello che è il fenomeno hooligans, prendendo proprio spunto da quello che Valerio scrisse sul suo libro Ultra di ormai tanti anni fa. Nei primi anni di vita il football viene praticato e seguito soltanto dalle classi medie e da quelle superiori. Il pubblico è formato da studenti ed ex studenti delle public schools, ovvero le scuole private inglesi, e non supera le 5.000 presenze. Solo a partire dal 1870-71, quando il gioco prende ad acquisire schiere di appassionati tra i vasti settori della classe lavoratrice, il numero degli spettatori inizia a lievitare, fino a raggiungere già nel campionato 1905-1906 la rispettabile cifra di 5 milioni. L'approccio della working class al football è totalizzante. Alle comunità operaie si deve la nascita di molte squadre, tra cui il West Ham e lo Sheffield United, e soprattutto il forte senso di identificazione che lega squadra, tifoso e comunità. Il processo di massificazione del pubblico e di professionalizzazione dei giocatori si accompagna col problema della violenza che, contrariamente a quanto si crede, segna il mondo del football fin dalle origini. Tra il 1895 e il 1915 la Football Association assume non a caso 117 provvedimenti contro squadre i cui sostenitori si sono macchiati di, aperte virgolette, disordini e comportamenti scorretti che ricorrono regolarmente sui campi di calcio nelle due decadi che precedono la prima guerra mondiale. Allora, non facciamo sicuramente la storia del fenomeno hooligans, però due parole insomma su quella che è la situazione attuale vorrei chiedertele. Sì, l'abbiamo visto anche sabato scorso, due sabati fa, quando in piazza Londra c'erano le tifoserie cosiddetti hooligans di squadre di Londra e del nord che sono scesi a fare un contropresidio alla manifestazione di Black Lives Matter e giustamente le hanno prese dappertutto. E mi rifaccio anche un altro libro prima di arrivare a Valerio, che è Football Hooliganism, calcio e violenza operaia, uscito lo scorso anno di Arrivi a Prodi, che è una raccolta di testi di John Clark, che è un sociologo, faceva parte dei Cultural Studies di Birmingham con Stuart Hall e tutto, dove mette in risalto come questi valori di comunità che si creano nelle curve, lui analizza soprattutto il dopoguerra, gli anni 50, siano valori che abbiano comunque a che fare con identità, maschilismo, aggressività e tradizione. Quindi aggiungo io anche con valori diciamo imperiali e imperialisti classici dell'Inghilterra e quindi valori anche, aggiungo di nuovo io, abbastanza discutibili. Ma secondo me la grande cosa di Valerio Marchi, che dovrebbe chiunque voglia scrivere di pallone, occuparsi di pallone, dovrebbe leggersi e studiarsi, è quella di avere raccontato in Ultra, nella sindrome di handicap e tutto quanto, che tutte queste manifestazioni di violenza del sottoproletariato giovanile vanno analizzate per quella che può essere la loro funzione sociale, quindi non vanno né mitizzate da una parte né demonizzate dall'altra, ovvero succede questa cosa, cioè il calcio, la strada, la piazza, tutto quanto è una valvola di sfogo politicamente, bello, brutta, ci piace o meno, in politica, ma comunque sia va attualizzata e vista e studiata per quello che vuole esprimere, per la funzione che ha come devianza e anche, e poi di questo magari ne parliamo meglio nel prossimo blocco, su come poi la repressione li utilizza e su come poi la repressione si fonda su questo tipo di devianza che viene raccontata a tutto tondo come sbagliata, per poter poi imporre tutta una serie di misure repressive che messe addosso ad altro farebbero più scalpore, finché vengono messe addosso ai tifosi non danno fastidio a nessuno. A nessuno. Ok, noi adesso, come diceva Luca, nel prossimo blocco affronteremo meglio l'argomento che possiamo riassumere come curve come laboratorio di repressione, diciamo così. E adesso stiamo parlando degli hooligan, stiamo parlando dell'Inghilterra, certamente la Firm, cioè il gruppo organizzato più noto, più famoso, quello che come accennava Luca, intorno a cui si è creato un alone leggendario che va molto lontano dalla realtà, è quello dell'Intercity Firm, cioè ICF, che era il gruppo più violento e più famoso, più noto per le sue gesta, era il gruppo dei supporter una parte dei supporter del West Ham. Nel momento di massima gloria hanno raggiunto le 400 unità, erano famosi perché andavano in trasferta, usavano gli Intercity, appunto, andavano sciolti tra di loro, non portavano sciarpetto, niente di riconoscibile, vestiti, tenevano molto la moda, vestiti in abbigliamento perfettamente casual, andavano al loro punto di ritrovo finché attaccavano il gruppo rivale. Loro, va anche detto, anche qui, come ci insegnava Valerio, senza dare nessun giudizio, le Firm si scontravano tra loro, non c'erano altri tifosi, diciamo, innocui che finivano nel mezzo. Cioè, la Firm del West Ham cercava quella del Millwall o quella dello United o quella, insomma, della Aston Villa, cercavano i loro rivali, combattevano tra loro e passano anche alla storia perché erano soliti lasciare dei biglietti da visita dopo che avevano vinto una rissa. E a terra lasciavano dei biglietti: congratulazioni, avete incontrato l'Intercity Firm. Sono diventati molto molto famosi, al di là delle gesta che vanno dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 90, quando per motivi noti c'è una cesura netta nella storia del fenomeno hooligan, cioè una dopo l'Eisel e dopo la tragedia di Liverpool. E dicevo che sono molto famosi anche perché c'è un libro di uno dei loro capi che si chiama Casper Nunn, che considera un po' una Bibbia, insomma, per chi è appassionato a queste tematiche, quindi un libro molto venduto e molto letto. Addirittura è stato dedicato un film che si chiama Green Street, che in Italia è uscito come Hooligan proprio. Hooligans, sì. Credo in Italia è uscito proprio Hooligan, il protagonista è un personaggio famoso perché ha fatto altri film. Frodo. Harry Potter, se non ricordo male, no? È lo stesso attore. Vabbè, non so chi è, sì, insomma, sì, comunque è un personaggio molto famoso. Il film per delle cose funziona anche, quindi se vi interessa il tema guardatevelo. E l'ultima notazione prima di passare un pezzo dedicato appunto ai supporter di West Ham è che al di là della deriva che hanno preso dopo tanti di queste firm, l'Intercity ICF era probabilmente l'unica, almeno l'unica tra quelle importanti, l'unico gruppo organizzato che conteneva tra i componenti anche diversi neri, diversi neri, perché l'East End di Londra era popolato da una forte comunità giamaicana e quindi era facile, lo stesso Casper Nunn è nero, quindi era facile incontrare non solo bianchi tra i componenti della Firm. Della Firm. Noi adesso ci ascoltiamo il loro inno è I'm Forever Blowing Bubbles, però ce l'ascoltiamo suonato da una band OI che sono i Cockney Rejects. Loro erano non solo tifosissimi di West Ham, ma frequentavano, non so fino a che punto, non so se partecipavano poi anche a trasferte o cose del genere, comunque frequentavano l'ICF, tant'è che nelle cronache viene raccontato che durante i loro concerti non era raro che tifoserie avversarie tentavano l'aggressione, e quindi loro avevano sempre un servizio d'ordine fuori dai posti in cui suonavano. Quindi l'ho già detto, loro sono i Cockney Rejects, la canzone è I'm Forever Blowing Bubbles. Just a night dream. la. L'abbiamo nominato più volte, o meglio, l'abbiamo nominato nel blocco precedente, come diceva Ale, come diceva Luca, e torniamo a parlare di Valerio Marchi. Per chi, vabbè, molti delle persone che ci stanno ascoltando spero che sappiano di chi parliamo, però è bene sempre forse dare qualche informazione in più. Valerio Marchi era uno storico, sarebbe diventato certamente un grande professore, ma lui ha scelto di far diventare la sua università la strada, e non è una frase fatta, non è un luogo comune, è vero. Ci teniamo particolarmente a ricordarlo perché la sua strada era la nostra strada. Lui stava qui a Via dei Volsci, dall'altra parte del marciapiede rispetto a Onda Rossa. La sua libreria si chiamava Libreria Internazionale, la ricorderete, chi passava qui aveva la bandiera basca fuori, ed era sempre un piacere andare da lui in libreria, perché non era un venditore come gli altri, e insomma lui un sacco di consigli su cui voleva capire chi eri, ti faceva cambiare idea, dicevano questo non è il libro per te, tu ti devi leggere questo, ti faceva un sacco di domande, era molto curioso e amava dare culture. E poi la sua cosa veramente meravigliosa, quello che dava quello che manca a questo quartiere probabilmente, è il fatto che Valerio sapeva far parlare mondi apparentemente diversi. Cioè dentro lui era ammirato in autonomia e non, ovviamente non se n'è mai pentito, l'ha sempre rivendicato. I compagni della radio erano i suoi compagni, ma la libreria era frequentata dagli skinhead, era frequentata dagli ultras, cioè lui e tanti altri cattivi, insomma. Quindi questo suo saper far dialogare mondi apparentemente lontani era forse la sua più grande qualità. E il prossimo, non vorrei fare gaffa, mi sembra il prossimo 24 luglio saranno passati 14 anni dalla sua morte. È morto a 50 anni di infarto, lui si era appena trasferito a Polignano a Mare con la sua compagna, aveva aperto una libreria che aveva chiamato La Capagira. E la sua ultimissima cosa, non so se il giorno prima o due o tre giorni prima dell'infarto, era organizzato appunto alla Capagira un incontro in cui lui presentava il suo libro. Il libro è Il Derby del Bambino Morto, un libro che vi consiglio assolutamente, che racconta appunto la storia di un derby e quello che c'è stato dietro quel derby tra Roma e Lazio nel 2004, se non vado errato, sì. E l'aveva presentato invitando diversi gruppi ultras pugliesi, c'erano certamente da Bari, Monopoli, credo Foggia, adesso non ricordo bene quali erano gli invitati. Comunque, da quello che poi è uscito fuori nei giornali nei giorni successivi la sua morte, era stato un incontro riuscitissimo come al solito, e come al solito aveva saputo catturare l'attenzione. E adesso chiedo a Luca quello che io sarei stato curiosissimo di sapere da Valerio, che cosa avrebbe, gli avrei chiesto, oppure che cosa avrebbe scritto di un fatto. Cioè, lui ha sempre dipinto, adesso lo dico in maniera molto grezza e mi perdoneranno chi parla meglio di me, comunque lui aveva sempre individuato negli ultras il nemico perfetto, no? Il nemico per tutte le stagioni, e quindi il Fourth Devil, e quello, insomma, lo stesso Derby del Bambino Morto racconta in cui l'utilizzo dei gas, dei CS contro i tifosi della Roma in curva sud, intrappolati di fatto. E insomma, vabbè, possiamo dire brevemente, il derby del Bambino Morto, diciamo, ruota intorno al fatto che prima di questo derby si sparse la voce che era morto appunto un bambino prima della partita, un bambino investito da una volante della polizia. La notizia non era vera, era certamente vera la violenza incredibile che fu abbastanza gratuita con la polizia all'interno della curva, tutori dell'ordine contro, in particolare contro i tifosi della Roma in quel caso, ma non perché non era questione di colori, era questione di dinamica. Adesso non entriamo troppo in quello. Però la cosa che dicevo che mi avrebbe molto incuriosito è come avrebbe raccontato il fatto nuovo, cioè che gli ultras, oltre ad essere cattivissimi, adesso sono diventati anche untori, no? Cioè adesso sembra che in Lombardia, a Milano, l'evento deflagrante, adesso mi concentro su Milano, l'evento deflagrante, quello che ha contribuito a portare il Covid in Nord Italia e pure in Spagna, sia stata la partita era Atalanta-Valencia, una partita Champions League che per motivi legati alla capienza dello stadio di Bergamo si è giocata a Milano, a San Siro, allo stadio Giuseppe Meazza, e quindi Bergamo, sappiamo insomma tutte le storie del Covid, non le ripetiamo qui, insomma sembra che quella partita abbia causato tutti i disastri che conosciamo. Sì, è proprio così, Fabio. Infatti, come dicevi tu, proprio nel derby del Bambino Morto, Valerio, che tira fuori una nozione che avevo già usato nei libri precedenti, che è quella del folk devils, quindi dei cattivi dei racconti, dei cattivi a tutto tondo, che nella narrazione popolare sono talmente cattivi e senza alcuna possibilità di salvezza che possono essere utilizzati da qualsiasi tipo di potere e di repressione a loro piacimento, perché tanto nessuno andrà mai a salvarli e nessuno andrà mai a chiedere conto di questo tipo di repressione. E la partita a cui tu fai riferimento si è giocata a San Siro il 19 di febbraio e per due mesi abbiamo visto sulla stampa sportiva e non, anche sulla prima pagina di vari quotidiani che si autodefiniscono progressisti, il fatto che il Covid sarebbe stato sparso dai tifosi e dagli ultra in Lombardia, solo che appunto la partita è stata il 19 febbraio. Il 27 febbraio Beppe Sala lanciava lo slogan, quindi due settimane dopo, Milano non si ferma, e faceva gli aperitivi in piazza. Il 28 febbraio Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, lanciava lo slogan Bergamo is running insieme a Confindustria e diceva che bisognava continuare ad andare avanti, e nel frattempo le fabbriche stavano aperte e la gente veniva costretta ad andare a lavorare, e per mesi, grazie appunto a sindaci di sinistra come Gori e Sala, grazie alla Confindustria locale e nazionale, grazie ai padroni, la gente in quel le zone continuata ad andare a lavorare, si è contagiata, si è ammalata, è morta. La Lombardia a un certo punto ha avuto un terzo dei casi di tutta Europa, erano solo in Lombardia, e però la colpa è stata data agli ultra, cioè a una cosa che è successa 10 settimane prima, una partita di calcio che è successa 10 settimane prima che tutti i grandi sindaci dicessero che bisognava andare avanti e bisognava tenere tutto aperto. E su questo il lavoro di Valerio è preziosissimo e rimane attualissimo, perché c'è tutta una storiografia di repressione nelle curve, negli ultra, da i manganelli tonfa sperimentati nelle curve prima di essere usati a Genova, ai gas CS, a tutte anche delle disposizioni legislative come i riconoscimenti facciali, i biglietti nominali, il DASPO di gruppo, quindi provvedimenti anche che non sono stati giudicati incostituzionali, ma diciamo che sono al limite della costituzionalità. Tutto questo è stato utilizzato nei confronti dei i cosiddetti, possono essere hooligans o ultras, con tutte le differenze enormi che ci sono tra queste due categorie, tra questi due tipi di agire all'interno degli stadi e delle piazze, però contro di loro viene proprio perché, come aveva colto benissimo Valerio, sono i cattivi a cui si può attribuire qualsiasi tipo di colpa, contro di loro viene utilizzata tutto un certo tipo di repressione che altrimenti farebbe spavento, che altrimenti verrebbe potuta potrebbe essere contestata, e che ovviamente è solo, appunto, il concetto del laboratorio di repressione, solo un laboratorio, perché le stesse leggi, gli stessi manganelli, gli stessi gas, gli stessi lacrimogeni poi vengono utilizzati nelle piazze contro chi manifesta, nelle strade e contro la gente. Ok, e io, visto che siamo in Italia, a questo punto lancerei anche un pezzo degli Offlaga, l'abbiamo già messo in questa trasmissione, Piccola Storia Ultras, per chi non lo conosce, diciamo è un racconto che nasce dalla prima esperienza allo stadio di Max Colini, il cantante degli Offlaga, che andava allo stadio a vedere la sua Reggiana. C'è un gruppo che si chiama Ultrasghetto, lui ascolta questo, diciamo, questo coro che viene cantato sull'aria dei morti di Reggio Emilia, poi all'interno della stessa canzone dice l'epitaffio di uscita da quel periodo storico. Gli Ultras se lo scrissero a vernice su Viale Montegrappa inneggiando al bombardamento americano sulla Libia per far fuori Gheddafi. Qui riprendono un'altra, diciamo, si autocitano in un pezzo di Robespierre in cui appunto canta Colini questa scritta sui muri di Reggio, che diceva grazie a Reagan bombardaci Parma, che gli costò anche il fatto di non potersi andare a esibire con gli Offlaga proprio a Parma. C'è una piccola storiella, anzi, se c'è qualcuno che ci ascolta, anche perché io l'ho trovata su un blog dei tifosi del Parma, per cui sono pronto a essere smentito, sembra che nel 1990, durante una partita fondamentale per la promozione in Serie A, proprio Parma-Reggiana, che diciamo è un derby abbastanza acceso, entrambe le squadre possono andare in Serie A, si svolge questa partita, vince il Parma che poi conquisterà la sua prima storica promozione in Serie A, la Reggiana perde, fuori dallo stadio ci sono degli scontri tra le due tifoserie e sembrerebbe che i tifosi del Parma hanno conquistato questo striscione ultrasghetto che è nascosto in uno dei club della città. Di più non so se è vero, non so se l'hanno recuperato, se qualcuno ne sa. Il nostro numero è 0649 1750, off lago Disco Pax, piccola storia ultras. Avevo 9 anni quando per la prima volta andai allo stadio Mirabello a vedere la squadra della mia città. Di calcio sapevo solo che tifavo per quella squadra. Di politica sapevo solo che quando c'era Pajetta in televisione dovevo stare zitto, altrimenti volava un coppino o uno scappellotto. Se invece c'erano Fanfani o Almirante volava un coppino se stava ad ascoltare. In casa le idee erano chiare e si comunicavano senza troppo approfondimento. Una trasmissione dei valori efficace, ancorché vagamente dolorosa. Allo stadio sentì un canto che mi parve bellissimo. Non ne colsi subito la storia che si portava dietro, ma mi piacque ugualmente. Sono molti anni che questo canto è scomparso dalla curva sud, ma io lo ricordo ancora a memoria. Sangue nei popolari, sangue nei distinti. Le abbiamo prese ma non siamo vinti. È ora di rifarsi, è ora di sparare. Il sangue dei compagni dobbiamo vendicare. Sangue nei distinti, sangue nel palazzetto. Noi siamo tutti quanti. Ultraschetto. Questo coro degli ultras della Reggiana nella metà degli anni 70 era intonato sull'aria dei morti di Reggio Emilia e solo crescendo compresi che era figlio di una canzone popolare dedicata dei morti veri. Morti veri non allo stadio ma in piazza per mano della polizia fascista del governo Tambroni il 7 luglio del 1960. Anni dopo averlo sentito per la prima volta era già cambiato tutto. L'epitaffio di uscita da quel periodo storico gli ultras se lo scrissero a vernice su viale Montegrappa, inneggiando al bombardamento americano sulla Libia per far fuori Gheddafi. Lo stesso Gheddafi che poi divenne azionista della Juventus. Lo stesso Gheddafi cui figlio giocava per scherzo nel Perugia. Lo stesso Gheddafi, socio dell'ENI. Lo stesso Gheddafi che infine abbiamo ripreso a bombardare. Così. Per sport. Thank you. E allora questa è sempre Radio Onda Rossa, allora erano gli Offlag di Scopax, piccola storia ultras. Allora andiamo avanti, c'è una squadra con cui vorrei un attimo, diciamo, parlare, che insomma, indipendentemente da se siete appassionati o meno, appassionati di calcio, per cui forse molto probabilmente tutti e tutte gli ascoltatori e ascoltatrici della radio un po' simpatizzano, ovvero il Sampoli, squadra che prende il nome dal quartiere portuale di Amburgo. Nella prima metà degli anni Ottanta, in questo importante quartiere per l'economia e lo sviluppo della città, però al tempo stesso anche un quartiere abbastanza povero e disastrato, le gradinate dello stadio iniziano a riempirsi di punk, di autonomi. Ragazzi e ragazze, insomma, impegnate anche fuori lo stadio in tante battaglie sociali e anche soprattutto in occupazioni e lotta per la casa. Il Jolly Roger, che è il teschio bendato, lo stemma del Sampoli, a questo punto esce dallo stadio, diventa un simbolo che non sventola solo all'interno dello stadio, ma viene anche, diciamo, messo in bella vista sulle case occupate. Da allora, diciamo, il Sampoli ha portato avanti con tante luci, qualche ombre, non lo so, questo lo chiedo a te Luca, i suoi valori, c'è un codice etico anche che devono seguire i calciatori e c'è anche una sorta molto probabilmente di compromesso, no? Perché il Sampoli comunque ha militato in quella che è la Serie A tedesca, ora se non sbaglio è in Serie B da qualche anno, però è normale che deve andare anche a fare i conti con quello che è poi il sistema calcio, quindi un sistema che indubbiamente ruota intorno ai soldi. Quindi volevo sentire un attimo la tua. Sì, prima abbiamo fatto brevemente una brevissima distinzione tra hooligans e ultra, il Sampoli poi... Straordinario gol di Mastro Nunzio per il pareggio dell'Ancona. Attenzione, il vantaggio del Frosinone all'undicesimo minuto con Troianiello. Scusa Lu, Madonna, Troianiello comunque continua a fa spettacolo. Vantaggio del Frosinone mi scardina la bolletta. Non me l'aspettavo ancora io, vai avanti, vai. E quindi a Sampoli, ad Amburgo, sono i primi o i più famosi, diciamo, i più riconosciuti a portare proprio quella che era la cultura ultra che c'era in Italia negli anni 70 fuori dall'Italia, dove ultra significa vedere le partite in un certo modo, cantare, ballare, colori, dare spesso le spalle al campo, perché la festa è quella che c'è sulle curve oltre a quella che c'è sul campo. Sampoli, squadra meravigliosa, mitologica, tutt'oggi ha una tifoseria assolutamente antifascista, antisessista, antispecista, militante, di ultrasinistra. Ha nella sua storia calciatori meravigliosi. Uno che voglio ricordare è Yipping, il portiere che a un certo punto andò a insegnare calcio in Nicaragua dopo la rivoluzione sandinista e andò a insegnare il pallone per la rivoluzione sandinista in Nicaragua. Lui viveva in Asenstras, nelle case occupate, poi è tornato a vivere nelle case occupate dell'Asenstras. Tutto questo però, come avevamo raccontato all'inizio, luci e ombre nel campionato argentino, il bello e il brutto, ci sono luci e ombre anche nell'idea, nel concetto del Sampoli. È appena uscito la settimana scorsa un lungo articolo su The Guardian dove diceva che nel calcio di oggi probabilmente gli unici che possono sopravvivere senza più il pubblico, senza più le televisioni e tutto quanto, sono quelli del Sampoli, perché comunque hanno una comunità di tifosi e un simbolo proprio, un brand che vale ben al di là di quella che è la posizione in classifica, la coppa, non la coppa, il campionato, se si gioca o non si gioca. Negli stessi anni Ottanta, infatti, una ricerca stabilì che il brand, il simbolo, il Jolly Roger del Sampoli utilizzato nelle case occupate di Amburgo era tipo il secondo o il terzo brand di maggior valore del pallone europeo dopo Real Madrid e non mi ricordo che cos'altro. Questo per dire che comunque anche sul Sampoli c'è, cioè, tutto un investimento emotivo che si tramuta in investimento economico, e nella stessa storia degli ultimi anni del Sampoli ci sono, degli ultimi 40 anni del Sampoli dagli anni 80, ci sono tutta una serie di contraddizioni, quali andare o non andare nello stadio nuovo, accettare o non accettare certi tipi di sponsorizzazioni, magari ne rifiuti alcune apertamente sbagliate perché un'industria non piace giustamente, però poi ne prendi un'altra che ha poca differenza o che magari fa parte di un conglomerato di gente che fa anche cose peggiori. E questa è un po' tutta la contraddizione che fa parte del pallone e del calcio in generale. Un'altra cosa che spesso si casca, dove si casca nel Sempoli, è una mitizzazione e una romanticizzazione. Quindi si vanno a mitizzare quegli anni 80 del Sempoli con i punk, gli autonomi al mille intorno allo stadio a fare casino con le bandiere nere, e poi in piazza a fare a botte con la polizia e a tenere la piazza. Tutta questa romanticizzazione però ci porta al racconto di un quartiere che adesso viene mitizzato, ma che negli anni 80 era già comunque un quartiere, diciamo, come è Amsterdam adesso, cioè un Luna Park. Da una parte c'erano la Hasenstrasse e le case occupate, dall'altro c'era un Luna Park. Negli stessi anni 80, quando si mitizza l'idea di Sempoli e si va a occupare gli spalti del Sempoli, si mitizza un quartiere che negli anni 50 però già iniziava ad essere il quartiere dove la ricca borghesia di Amburgo andava a prendere i suoi vizi, il sesso, la droga, le cose, tutto quanto. Quindi si va sempre a mitizzare qualcosa che non è mai stato com'era. Se si va addirittura a mitizzare prima il Sempoli negli anni del nazismo, a differenza di altre squadre come il Bayern Monaco, i dirigenti che erano antinazisti ovviamente, i dirigenti del Sempoli facevano parte della gerarchia nazista. Quindi ecco, il Sempoli è meraviglioso, tutti adoriamo il Sempoli, anche pochi anni fa quando c'è stato il controvertice ad Amburgo sono stati fondamentali i tifosi del Sempoli per gestire la piazza, per aiutare i compagni arrivati da tutta Europa. Però ecco, la mitizzazione, la romanticizzazione del pallone, del vecchio Sempoli, in nome di un ideale passato, antico, di un paradiso, di un'età dell'oro che non è mai esistita, è un po' pericolosa, diciamo. Ok. Vabbè, noi anche, insomma, se volete approfondire anche un po' la storia del Sempoli, io vi consiglio questo bel libro di Marco Petroni uscito per Deriva Prode, si chiama Sempoli siamo noi. Diciamo, il nostro omaggio lo facciamo, anzi lo faccio, diciamo, rubando proprio le prime righe del libro, e dice questo: i rintocchi di campana a morto e il riff di Hell's Bells degli AC/DC segnano l'inizio della festa. Hell's Bells è la canzone sulla quale i giocatori entrano in campo, le squadre escono dagli spogliatoi e a passo lento si dirigono verso il centrocampo. L'arbitro guarda la piccola carovana dei giocatori che passa a pochi metri dalla tribuna. Poco prima, da una vera e propria baracca sopraelevata fatta di lamiere nei pressi della tribuna centrale, lo speaker travestito da Fidel Castro aveva appena annunciato le formazioni Hell's Bells e AC/DC. Thank you. AC/DC a Radio Onda Rossa in questa puntata che ruota intorno agli stadi, intorno al tifo. Ricordiamo che l'ultima puntata della stagione. Quindi poi andiamo in ritiro. Andiamo in ritiro, assolutamente. Prima un po' di vacanze, magari. Cavolo, Maldive, eh? Ok, vado? Vai. Posso. Vabbè, abbiamo parlato adesso del San Poli, Luca e Alessandro l'hanno raccontato, nella sua bellezza, nella sua diversità, nel suo antifascismo, ma anche nelle sue contraddizioni abbastanza normali, diciamo così, per una squadra che milita tra i professionisti in Serie B, giusto? Gioca sì, in Germania, in quella che da noi sarebbe la Serie B. E fare i conti con le contraddizioni l'ha fatti anche un'altra, cambiamo radicalmente discorso, un'altra società, faccio un passo indietro. Allora, siamo in Inghilterra e la squadra l'abbiamo nominata più volte, una delle squadre più importanti d'Inghilterra e tra le più importanti al mondo, il Manchester United. Manchester è una dei più antiche, dei più importanti cuori industriali d'Europa e d'Inghilterra. E la tifoteria dello United è storicamente legata al proletariato, agli operai, mentre quella del City si racconta che addirittura era quella del sottoproletariato, che erano ancora più radicali in qualche modo rispetto ai tifosi dello United. Ma al di là di queste chiacchiere, che cosa succede? Il calcio in Inghilterra adesso qua non lo possiamo riassumere e non sono certo in grado io di farlo in poche battute, in pochi minuti, comunque ha notevoli cambiamenti dal calcio che racconta, prima Ale leggeva dei stralci del libro di Valerio Marchi, dal calcio dei primi anni del Novecento a tutto quello che ha attraversato appunto il Novecento. Poi anche in Inghilterra il calcio cambia, o meglio, non cambia tanto il calcio inteso come sport, cambia tutto quello che ruota intorno al calcio e cambia anche il ruolo che rivestono i tifosi, o meglio, cambia la libertà che concedono ai tifosi le società, gli interessi economici, le autorità. Insomma, il calcio diventa sempre più un posto in cui bisogna stare seduti, gli striscioni vengono controllati. Insomma, adesso la sto facendo molto semplice, però comunque si allontana sempre più dall'idea, almeno, che c'era in quel pezzo di mondo, in quel pezzo d'Inghilterra, in particolare a Manchester. Ci sono diverse date importanti nel rapporto tra i tifosi dello United e la società. Un primo passaggio fondamentale fu la nascita della Premier League. La Premier League è il campionato, la Serie A inglese, come la conosciamo ora, nasce nel 92. Il cambiamento non è un cambiamento di nome, ma un cambiamento sostanziale. E insomma, il calcio diventa un affare sempre più importante. Poi Luca, correggimi se dico troppe imprecisioni. Un altro momento importante nella storia, che questo riguarda più in particolare i tifosi dello United, è nel 98, quando prova a entrare in società Murdoch, Rupert Murdoch, il tycoon dei media. Insomma, c'è una ribellione a Manchester, vengono organizzate manifestazioni, raccolta firme. Alla fine i tifosi dello United vincono e Murdoch non entra in società, però poi poco non postulano nulla quando nel 2005, 15 anni fa, lo United diventa di proprietà di un fondo di investimento americano e capeggiato da un tizio che si chiama Malcolm Glaser. E questo è il punto di rottura. I tifosi poco postulano, o meglio, una parte dei tifosi quantomeno. Quindi pochi giorni, il 19 maggio 2005, a una settimana dal cambio di società ai vertici dello United, nasce il United of Manchester, cioè c'è una scissione, una vera e propria scissione. Cioè, quindi i tifosi fondano una squadra che parte dai campioni dilettanti. E però adesso io la sto facendo troppo lunga, lo chiedo, ci facciamo raccontare questo pezzo di storia da chi ne sa più di me, certamente, Luca. Sì, no, è tutto giusto. Appunto, il calcio cambia non in campo, ma cambia fuori, seguendo come cambia la società e come cambia la struttura economica della società. Quindi prima avevamo una società industriale, il calcio faceva parte dell'industria di riferimento cittadina o dell'industria vicina o raramente di un'industria che veniva da fuori. Oggi siamo in un'economia finanziaria e il calcio è diventato parte del mondo finanziario e dell'economia finanziaria. Il calcio oggi è tutto un calcio fatto a debito, fatto di futures, fatto di derivati, fatto di prestiti, fatto di acquista a pagare zero. È famoso l'esempio di Manchester, c'è un esempio qua a Roma, ovviamente c'è l'esempio del Liverpool, c'è l'esempio, quello che mi tocca più da vicino e che siamo a un livello ancora più alto, che è quello del Milan, che addirittura di proprietà di un hedge fund senza quasi persone fisiche dietro. A tutto questo hanno provato a rispondere i tifosi del Manchester United andandosene dallo stadio, riprendendo i colori prima del Newton Heath, che era la vecchia squadra dei ferrovieri da cui era nato, poi riprendendo invece i colori sociali bianco, rosso e nero, e fondando l'FC United of Manchester, il quale però si è scontrato con tutte le contraddizioni di cui raccontavamo prima a proposito del St. Pauli. E se il St. Pauli comunque ha e mantiene ancora tutt'oggi un cuore militante e politico, lo United of Manchester, pur essendo nato, diciamo così, da una scissione a sinistra all'interno dello stadio, man a mano l'ha persa questa connotazione, perché si è trovata ad avere davanti tutta una serie di step: la costruzione dello stadio, la sponsorizzazione, la società, la divisione delle quote, gli investimenti, gli aumenti di capitale e tutto quanto, e quella che poteva essere un'idea di calcio dal basso è finita mangiata da quello che è poi il sistema capitalista che sta all'interno della piramide del calcio e delle varie divisioni del calcio. A questo quindi, più che lo United of Manchester, contrapponiamo quella che è l'idea del calcio popolare. Abbiamo un esempio meraviglioso qua in quartiere, che sono le compagne e i compagni dell'Atletico San Lorenzo, ma abbiamo ormai squadre di calcio popolare in tutta la penisola, da nord a sud, a Milano, a Napoli, a Brescia, a Padova, a Lecce, in Toscana, Firenze, abbiamo ovunque questi esempi, dove la proprietà, i giocatori, i tifosi sono sempre gli stessi, dove l'idea di mutualismo e di solidarietà, di condivisione di tutto è nella creazione proprio della pratica sportiva, come educazione sportiva, come educazione sanitaria. Quindi si inizia a giocare insieme da bambini, si diventa, per chi può, anche delle polisportive, si portano avanti dei valori insindacabili in ogni passo che la società fa attraverso le assemblee. Ciascuno veramente è parte della squadra sotto ogni aspetto. Quindi la cosa è la crescita proprio dei calciatori, no? Esatto, la crescita, l'allevamento dei calciatori, qua ci sono le giovanili, all'atletico, certo, e tutto quanto. La cosa interessante sarà vedere, infatti ne parliamo spesso anche con loro, quando si cresce come squadra, non quando fai crescere i giocatori, ovvero per adesso è, non dico che è facile, perché è un lavoro durissimo, impegnativo, che porta via tempo e risorse, però a rimanere quasi puri e riuscire a farcela è un conto. Però il pallone è un gioco, e a pallone bisogna vincere, bisogna segnare, bisogna fare gol, e se tu segni, giochi e fai gol, poi sali di categoria. E man a mano che si sale di categoria, è poi difficile. Bisognerà vedere, cioè non lo sa nessuno, perché non l'abbiamo ancora visto, però dovremmo vedere che cosa succede appunto a tutte le realtà di calcio popolare una volta che si entra nel magnifico mondo del business. Calcio. Esatto. Musicalmente si lega benissimo, vista questa idea anche, possiamo dire, romantica del calcio come sport popolare, che dal basso è nutrito anche di valori. Si sposa bene il prossimo pezzo che mettiamo, tratto da un disco di Filippo Andreani che si chiama Il Secondo Tempo, un disco uscito nel 2018. Il disco di fatto è un concept album sul calcio che allo stesso tempo è anche metafora e simbolo della vita stessa. E l'album ve lo consiglio perché è davvero splendido ed è una carrellata di personaggi magnifici. Lungo le canzoni di cui è composto l'album c'è il grande Torino, il giocatore del grande Torino, squadra di cui Filippo Andreani, che di Como è tifosissimo. L'abbiamo anche passata, c'è il grande, sì, Torino, no? Sì, c'è il grande giornalista sportivo Beppe Viola, c'è George Best, ne abbiamo parlato prima, c'è poi Michele Moretti, un terzino del Como, per chi non lo conoscesse la sua storia, è un giocatore diventato poi partigiano, che negli anni 30 rifiutò di alzare il saluto romano nella foto di squadra, erano gli anni del fascismo ovviamente. Ci sono tanti altri personaggi. Il viaggio di Andreani termina in maniera abbastanza scioccante, termina in un pomeriggio di un freddo pomeriggio nel 1995, quando un ragazzo di nome Claudio Spagna, un tifoso del Genoa, viene ucciso da una coltellata data da un tifoso del Milan, e poi in questo caso poco contano i colori delle squadre. Comunque questo Andreani lo vede, lo racconta come se fosse la fine in qualche modo dell'innocenza, della sua innocenza, visto che il concept sul calcio, il concept sulla vita poi riguarda la vita stessa di Filippo Andreani, e quindi probabilmente il 95 lui è dell'80, se non vado errato, quindi sì, lui quindicenne quando capisce che c'è anche altro dietro lo sport che tanto ama. E alla fine dell'album Spagna, questo tifoso viene immaginato insieme al capitano storico del Genoa, Gianluca Signorini, morto di SLA, viene immaginato sopra in cielo, sopra lo stadio Luigi Ferrari, se lo stadio del Genoa, lo stadio del Genoa della Sampdoria, sito nel quartiere Marassi, loro due insieme che guardano la partita del Genoa e tifano ovviamente Genoa. C'è anche tempo nella finale, proprio nell'ultimo pezzo dell'album, c'è la voce di Ezio Vendrame, che ci piace ricordare, l'abbiamo nominato prima, perché è scomparso, adesso non ricordo la data, comunque aprile, lo scorso aprile, quindi due mesi o due mesi e mezzo fa. Noi però ci ascoltiamo la traccia che apre l'album, la traccia si chiama Il primo non esiste, il primo tempo non esiste, la vita è tutto un secondo tempo, l'album è il secondo tempo, nel secondo tempo tutto è possibile, sono possibili rimonte, c'è chi il primo tempo non lo gioca mai, chi gioca sempre all'attacco senza troppi calcoli, ma comunque sentitevi l'album perché lui vi saprà spiegare meglio di come ho fatto io. Sì, in questo pezzo la prima voce è quella di Valerio Massandrea, poi entra la voce di Filippo Andreani, il pezzo è splendido e si chiama, già l'ho detto, Il primo non esiste. Stanotte sono tornato a casa dei miei. Loro dormivano di là. Li sentivo respirare. Nel salotto c'era la radio di mio padre. Bella, grigia, sconosciuta. L'ho accesa. Trasmetteva la telecronaca di Beppe Viola, che commentava il centesimo dribbling di un irlandese in maglia rossa. E in campo c'ero anch'io, ritornato bambino, quando ero indiscusso campione di tedesca. Con me completavano il reparto difensivo Michele Moretti a sinistra, Alfredino Rampi a destra e Signorini libero. Sugli spalti Claudio Spagna da Genova incitava il pubblico, che a gran voce faceva il coro agli altoparlanti dello stadio, dai quali usciva una canzone cantata da quello che giocava in attacco, quello che ci aveva un naso da Cesare su una faccia da Spartaco. A centrocampo due innamorati si baciavano e nelle pause lui le indicava le stelle. Le più grandi sono là, diceva, sopra la collina. E tutti respiravano l'odore del sigaro toscano che usciva dalle labbra di un prete di strada. E tutto questo succedeva nel secondo tempo, anche perché il primo non esiste. A cosa servirebbe, dico io, il primo tempo? Le partite devono durare 60 minuti tirati, coi cambi volanti e senza fuorigioco. Roba che dopo 10 minuti perdi 4-0. E poi magari finisci che vinci 37 a 29. Come si faceva il campetto, da bambini, quando dentro e fuori, pallone no, era tutto un secondo tempo. Con la paura di perdere, con l'ansia di vincere, con la fatica, con la grinta, con la fretta di tutti e di tutto insieme. Con il cuore che tiene e non tiene il passo, con le gambe sempre in corsa, per andare a vedere che cosa c'è dietro il prossimo angolo. Io sono ancora così. Io sono ancora così. La vita mia stile di vita, perché la vita mia è una somma di secondi tempi. E lui era Filippo Andreani a Note Cose Città. Allora, siamo entrati nei supplementari, ragazzi, tra due minuti entriamo nei supplementari. Ancora no, no, aspetta, ci sta i 90 e recupero. Ci stanno i 90 e recupero. Può succedere tutto in questi minuti, occhio. E dunque abbiamo parlato del Manchester United, passiamo all'altra sponda di Manchester, ovvero quella del City, che vede tra i suoi, diciamo così, tifosi eccellenti legati al mondo della musica, almeno due tra i più grandi protagonisti della scena post-punk originale, ovvero Marky Smith, leader dei Fall, e Ian Curtis dei Joy Division. Tra l'altro il Manchester City, che se non ricordo male dovrebbe fare, non so se per la prossima stagione, comunque una maglia commemorativa proprio a Ian Curtis. Questa è una moda che ha preso piede in Inghilterra, c'è anche un'altra squadra per esempio che sta ricordando l'Archytones, la storica etichetta ska, quella degli Specials, c'è cioè una terza maglia molto bella verde con gli scacchi e l'omino che ricorda proprio il logo dell'etichetta discografica. Quindi abbiamo parlato di Marky Smith, lui era un grandissimo tifoso del Manchester City fino a un certo punto, poi ha deciso di tirarsi fuori un po' da tutto questo mondo e nel 1983 scrisse un pezzo, si chiamava The Kicker Conspiracy. La presentò così Smith all'epoca, dice: nell'83 non si poteva parlare di calcio nella musica, noi parlavamo della violenza nel calcio, scatenata da una gestione schifosa di questo sport. Ricordo di aver pensato all'epoca che se Maradona fosse nato a Manchester avrebbe fatto parte di una squadra di qualche pub locale. Sovrappeso, piccolo, sudato e sfacciato, ho smesso di andare allo stadio a causa delle squadre sempre più muscolari e i biglietti sempre più costosi. E quindi questa è una canzone triste, noi ce l'ascoltiamo, loro sono i Fall, Kicker Conspiracy. Kicker, kick conspiracy, kicker, kick conspiracy. Just for ground units. Oh, sogno nel cassetto, impara di Kika! Come Marky Smith, Kika! Beh, vuoi basso però, vai. Eh? Sogno nel cassetto, magari metti cosa un po' di più. Se sapevo di Kika. Comunque, con Marky Smith mi hai passato bene la palla per restare al tema della puntata. Non ci ho dormito. Cioè, torniamo allo spunto che ci ha dato il là per costruire questa puntata insieme a Luca, cioè il fatto del paradosso di uno sport popolare senza popolo, no? Anche adesso credo ci farà qualche partita, ci farà tutti i giorni fino a Frosinone, stavamo a sentire. C'ha ragione, scusa. Quindi, insomma, stati a porte chiuse, partite senza nessun tifoso. Allora, abbiamo parlato di diversi aspetti legati al rapporto tra tifoseria e calcio giocato. Allora, abbiamo parlato a lungo della repressione, del fenomeno degli hooligan, il fenomeno degli ultras, e va bene. Sempre più paletti rendono la vita abbastanza difficoltosa, o meglio, il tifo di oggi è completamente diverso da quello che c'era fino agli anni 80, fino alla fine degli anni 80 in Italia e in altre parti del mondo, o quantomeno d'Europa. Un'altra, poi con Marky Smith è nominato del caro biglietti, cioè è diventato un lusso. In Inghilterra, io quando sono andato a Londra volevo andarmi a vedere West Ham, il posto più economico costava 85 sterline. No, ma solo a te però, solo a me perché gli altri erano tipo 30-35. Sì, comunque, un altro fattore, forse il principale, quello che costringe oggi le squadre a giocare nonostante non ci sia nessun particolare appeal per questo campionato, quello che appunto si sta concludendo, il fatto sono i diritti televisivi. Luca, nel libro che abbiamo presentato all'inizio, Uccidi Breitner, e racconta un episodio in qualche modo forse uno spartiacque, cioè nel 1994 mondiale che sono giocati negli Stati Uniti, la finale era Brasile-Italia, vinta poi dal Brasile ai rigori, il famoso errore di Baggio al dischetto, eccetera eccetera. C'è un dato che però resterà agli annali di quella partita. Quella partita fu giocata a Pasadena a una temperatura folle, alle 12 se non vado errato, e fu giocata in quell'orario che è davvero qualcosa di impensabile, perché era l'orario migliore per far accendere più televisori contemporaneamente al mondo, cioè per i diritti televisivi, soprattutto legati al mercato europeo, che era il mercato principale, hanno deciso di sacrificare proprio, non ce ne frega niente del gioco, tant'è che la finale fu penosa e finì ai rigori non a caso. E niente, Luca, che ci dici? Sì, la partita che racconti tu è tutto quel mondiale giocato appunto sotto temperature torride, ora impossibile, emblematico di come il calcio sia diventato uno sport assolutamente televisivo. Come abbiamo visto anche nei racconti di Valerio Marchi sulle lotte, sugli scontri tra tifosi a fine 800, il calcio non esiste un calcio moderno e un calcio premoderno. Il calcio nasce moderno, il calcio nasce come parte dell'industria culturale, dell'industria del divertimento, però sicuramente ci sono vari spartiacque nella storia del calcio. Il professionismo, che lo differenzia dal rugby, il calcio come sport di massa, appunto con le dittature in Italia, in Argentina poi, e il calcio televisivo. Per lanciare il calcio televisivo, per mandare via il tifoso e far accomodare lo spettatore, andava veramente ucciso il tifoso, e questo è successo veramente, è successo in maniera concreta. Sembra quasi un romanzo di Ballard, ma è la realtà. Per creare lo spettacolo ci deve essere una tragedia sotto, deve essere successo qualcosa. E le due tragedie che segnano il cambiamento della storia del calcio, il passaggio al calcio televisivo, sono quella dell'Eisel e quella di Hillsborough. Entrambe, si è scoperto dopo, responsabilità della polizia. A Liverpool addirittura, con una lunghissima lotta fatta dai familiari delle vittime, e che solo 3 o 4 anni fa è riuscita a portare alla luce le responsabilità della polizia e della politica che appunto avevano voluto massacrare e ammazzare i tifosi e dare ai tifosi la colpa di una sbagliatissima gestione dell'ordine. Ma è stato dopo quelle due tragedie, l'Eisel che impone la squalifica delle squadre inglesi che stavano stravincendo dalle coppe europee, Hillsborough che impone il rapporto Taylor, e quindi un ripensamento dell'intero pallone come uno sport non più da seguire allo stadio ma da guardare in televisione. Succede in brevissimo che mettono i tornelli, mettono i posti a sedere, aumentano tantissimo il prezzo dei biglietti. Contemporaneamente arriva la Sky di Murdoch, anche lui l'abbiamo già nominato, che riempie di soldi le squadre inglesi e trasmette le partite con la Pay TV a casa e nei pub. Allo stadio oggi in Inghilterra soprattutto ci vanno fondamentalmente turisti o miliardari o ricchi, cioè ci vanno i banchieri della City a discutere di affari allo stadio, nelle suite executive degli stadi non ci va più la gente perché appunto costa uno sproposito andare allo stadio. La Premier League è oggi il campionato di calcio per eccellenza, tutti i grandi giocatori vanno in Premier League, le grandi squadre vanno in Premier League, l'audience totale è quello della Premier League. Quindi negli anni 90 avviene proprio grazie a una tragedia questo cambiamento epocale, muore il tifoso, viene messo lo spettatore. Adesso con questa con la pandemia e con il Covid forse siamo davanti a un altro enorme cambiamento epocale, ovvero non c'è più né il tifoso né lo spettatore, nel senso che non c'è più nessuno. Lo stadio è vuoto e anche la televisione, guardarsi partite così, non se le sta più guardando fondamentalmente quasi nessuno. Quindi vedremo cosa succederà, potrebbe essere l'ennesimo cambiamento epocale del calcio. Beh, c'è un gruppo che insomma dobbiamo riconoscergli, si è sempre, diciamo così, battuto contro il calcio moderno, ovvero gli Statuto, ancora oggi con il loro gruppo di mozze li trovate in curva a tifare il loro Torino. Nella loro carriera di pezzi sul calcio ne hanno scritti tanti contro calcio, proprio contro il calcio moderno, faccio un gol. Noi quello che abbiamo scelto è forse quello un po' più famoso, quello che ci piace, diciamo la verità, anche di più, ovvero Ragazzi Ultra, loro sono Statuto. Ragazzi Ultra, Statuto. Oh, vai che stiamo per finire i supplementari. Quindi andiamo abbastanza veloci. Tra le tante cose che abbiamo raccontato non potevamo tenere fuori un argomento che è molto legato allo stadio, alle curve, alle tifoserie più o meno organizzate, cioè i canti, cioè da dove vengono i canti che cantano. Ha scoppiato la formazione di casa, il gol di Cuffa che ha segnato di testa al 45esimo minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Italiano. Cesena che viene in avanti, il tiro e il gol. Il gol dai 16 metri, un autentico infortunio da parte del portiere del Piacenza, Pugioni, che non è riuscito a bloccare il pallone, il tiro potente di Piangerelli. Sì, però Pugioni non è la prima volta che Italiano del genere. Non è la sua stagione. Non è la stagione sua, infatti. Invece Italiano è un giocatore da tenere sotto. No, Italiano è bravo, Italiano sì. È bravo. Vabbè, scusa. Comunque diciamo, da dove vengono le canzoni cantate nelle curve? No, molte, una canzone famosissima è la Marseillaise, molte vengono dalla musica classica, sinfonica. C'è Mozart, c'è la Marsigliese, che più o meno è cantata in tutti gli stati. Poi ci sono le canzoni pop del momento, le mode, quindi i grandi successi pop rock, che... per esempio l'ultimo grande caso che tutti più o meno conosciamo è la canzone dei White Stripes, Seven Nation Army, che era prima una canzone dei tifosi di una squadra belga, poi viene rubata dai tifosi della Roma che in trasferta vanno a vincere lì, gli rubano la canzone, diventa una canzone dei tifosi della Roma, poi quando l'Italia vince il mondiale nel 2006 diventa una canzone nazional popolare, il bo bo bo bo. Insomma, tra le tante canzoni a noi ci faceva piacere mettere un pezzo che nasce, ed è l'unico che almeno che ho trovato io, che nasce da un pezzo reggae, insomma un pezzo reggae molto famoso, si chiama Rivers of Babylon. Beh, un altro famoso è Buffalo Soldier, anche il ritornello di Buffalo Soldier è diventato di proprietà. Bravo, ti potevo chiamare prima, mannaggia, non mi è venuto in mente. Comunque Rivers of Babylon è un pezzo del 1970 del gruppo che si chiama The Melodians, è diventato famosissimo perché fa parte della colonna sonora di The Harder They Come, uscito nel 72, quindi è diventato un pezzo conosciuto a livello planetario, però probabilmente è entrata negli stati grazie alla cover dance che ne fece un artista che si chiama, aspetta, l'ho segnato, Boney M nel 1978. Scusa, lo dice, cioè stai giocando? Oh, no, Boney M. Non lo sto giocando. Oh, quello ha fatto Rasputin. Ma io non sto giocando. Vabbè, boh, vabbè, non ci ballavi mai tu con quanto nel 78? No, quello è anni tuoi, io sono un po' più tardi. Mi dissocio da st'uomo. Comunque dai, ascoltiamoci a Melodians, Rivers of Babylon. Vabbè, se stai in ritardo e recupero, ma immaginiamo chilometri, immaginiamo chilometri, no? And there we allora noi sulle note dei Melodians siamo praticamente arrivati alla nostra, al nostro ultimo pezzo, all'undicesimo, come in genere i giocatori in campo. Siamo andati un po' più lunghi, però. Come in genere? Vabbè, se uno è espulso, 10. Dai, mi sono riparato così, in calcio d'angolo. E sì, insomma, una puntata abbiamo fatto un po' più lunga, ci perdonerete. Siamo però Cetarini? Avevamo un ospite, era la nostra ultima puntata e boh, basta così. Prima di salutarci, io presenterei la canzone e poi andrei ai saluti. Dunque, abbiamo parlato di stadi vuoti in questo periodo. La canzone con cui vogliamo chiudere è quella di un gruppo rock che ha proprio preso un coro da stadio, un famoso coro da stadio, e lo ha portato all'interno di un loro album, di una loro di un loro brano. I Pink Floyd, la canzone è Fearless, canzone del 1971 contenuta su Middle. Dunque il rapporto con i Pink Floyd e il calcio è molto particolare, loro sono tutti molto tifosi, Roger Waters e Syd Barrett si conobbero sugli spalti dell'Arsenal, sono entrambi due, insomma, Syd Barrett era un grande tifoso dell'Arsenal, e loro quando andavano in tournée erano proprio soliti passare il tempo a giocare a pallone, si erano fatti tutta una divisa, avevano anche il nome per questa squadra che si chiamava First, aspettate che me lo sono segnato ma non lo trovo, First Eleven, e dopo l'uscita di Dark Side of the Moon, quindi nel 1973, a dicembre dello stesso anno la casa discografica, per cavalcare l'onda del successo di quel disco, pubblica Nice Spare, un disco che conteneva i primi due album appunto della band inglese, e la copertina del disco è formata da alcune foto, al centro si ritrae proprio la squadra in formazione completa, i quattro membri del gruppo più i vari fonici, produttori eccetera eccetera, in porta c'era Roger Waters appunto, e Nick Mason poi ha continuato questa tradizione di grande tifoso di calcio, qualche anno fa ha salvato il Bolton dal fallimento mettendo poi in pratica anche la strofa in Money, dice comprerò una squadra di calcio, c'è riuscito, lo ha fatto. In Fearless la canzone termina appunto con il coro di Anfield Road, fu registrata durante una partita, durante il derby tra Liverpool ed Everton, i tifosi del Liverpool intonano il loro inno che è You Never Walk Alone. Al termine del coro sentirete che ci sono i fischi, perché i tifosi dell'Everton fischiarono questo inno e iniziano poi a gridare Everton, Everton, molto probabilmente, visto che Roger Waters, questo se lo chiede proprio Nick Mason all'interno della biografia ufficiale del gruppo, dice io non so come ha fatto ad accettare di mettere il coro del Liverpool, molto probabilmente anche il fatto di voler inserire poi i fischi alla fine è stato un qualcosa che, diciamo, gli ha fatto cambiare idea. Io ringrazio Luca per essere stato con noi, per tutto quello che ci ha raccontato. Tra l'altro vi do appuntamento anche alla presentazione del suo libro, che è in uscita, presentazione che si farà il Giovedì 9 alla Torre, lo facciamo. Ok, per cui insomma giovedì 9 andatevi a sentire Luca e il suo libro su Gigi Riva. Noi ci sentiamo a ottobre. Ciao a tutti. Settembre, prossima tempo. Stagione, fine settembre. Grazie per averci ascoltato. Io vi ringrazio, Ale, vi ringrazio, Fabio. Forza Milan, ci vediamo la prossima volta. E voi sostenete sempre Radio Onda Rossa. Questo potete farlo sul sito, c'è, deve essere qualche interferenza. Ma noi siamo professionisti e non tiriamo fuori. Pink Floyd, Fearless. Ciao a tutte e a tutti. Un trillino all'ultimo minuto di recupero, Fearless, Pink Floyd. Ciao a tutti. Too steep to climb. Right.